ci siamo. Io me ne andrò con stile, un po' come un fucile, sai. Con colpo alla testa cancella tutto quello che hai. E non è il mio obiettivo lasciare sporco il pavimento col mio corpo privo di movimento. Il fiato già troppe volte buttato su un prato ed io sdraiato vicino alla donna che ho amato. Ma non perché dopo quel giorno non hai richiamato Ale. Forse tu hai ragione, questo mondo non è reale. Non ci posso fare niente, sai che non sono normale. Non stare a giudicare, guarda bene che se c'è il bene, vedi bene che c'è anche il male. Io me ne andrò con un finale, aprire la porta principale, non ritrovarsi nelle strade, attraversare un marciapiede e non essere guardato da questa gente che ti vede. Questo stronzo non ci crede che io cammino il doppio, anche se mi manca mezzo piede. Non mi sparo mille pose e l'emergenza sa bene che sulla barra niente rosa. Adesso basta, non mi resta che augurarvi, signore e signori, raga, tante belle cose. Oh, questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Non vedo e resto qui da solo come sono così. Prendo la strada per fuggire da qui, ma torno al capolinea perché sono così. È la mia gente che non sa che sono qua. Sono morto e forse questo è il mio di là. E penso che nessuno vuole che io sia qua. E forse nessuno pensa all'anima. E la gente parla di questioni sterili, sapendo che non ha domande utili. Domande come pane per la gente che c'ha fame. Ma io digiuno e qui nessuno mi dirà che non ho trame. La gente come tarme mostra i denti, occhi e zanne. Apro bocche, vanno in pane, tutti gridano all'allarme. Questa è metrica perfetta, registrata come carme. Nello stile e nelle forme, felino non un verme. Non provare ad imitarmi, te lo firmo che non serve. Non provare a non far niente, sei un coglione, ficcatelo in mente. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Non vedo e resto qui da solo come sono così. Prendo la strada per fuggire da qui, ma torno al capolinea perché sono così. È la mia gente che non sa che sono qua. Sono morto e forse questo è il mio di là. E penso che nessuno vuole che io sia qua. E forse nessuno pensa all'anima. Preferisco mendicare e stare in mercato al mio paese che guardare stronzi corrotti e la mia gente che ne fa le spese. Ho deciso di morire per non dover poi udire il frastuono della distruzione, le urla della tua maledizione. Stronzi con promesse di forza, non me ne fatto un cazzo dei tuoi discorsi. Ho deciso di morire perché ho finito le risorse, le lacrime di mia madre e la rabbia di mio padre. Per me sei una pulce con la tosse. Che cazzo campi a fare per illudere queste masse o per sciogliere queste matasse fatte di farsi? Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io così al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo lo ricordiamo con immenso dolore. Il pensiero va ai suoi cari che lui amava e che tanto lo amavano. Amava la vita, il nostro pianeta, la nostra società, e ora riposa alla destra del Padre, sotto la sua ala protettrice. Tutti lo ricorderemo come una persona splendida, gentile. Questo è l'ultimo giro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Questo è l'ultimo tiro e poi mi ritiro. Io al mio funerale non c'ero. Preghiamo.